Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Lidia Genchi di Nomad Entertainment, che distribuisce il film Normale di Olivier Babinet al cinema da giovedì 12 ottobre 2023, ben trovata. Ciao, buongiorno a tutti, ciao. Cosa racconta questo lavoro? È un lavoro di grande importanza sociale, perché il tema che affronta è il tema per cui moltissimi giovani sono confrontati, cioè la convivenza con dei genitori malati oppure in grave situazione di disagio. In questo caso la protagonista, che è un'adolescente, Lucy, si trova a vivere col padre, che è malato di sclerosi multipla, e quindi si trova ad avere una responsabilità sulle spalle molto più grossa della sua età. Quindi la storia è che i ruoli vengono ribaltati, cioè la ragazza diventa lei la responsabile della vita del padre, e il padre, purtroppo affetto da questa malattia, non può più occuparsene. Da così sembrerebbe una storia molto triste e anche molto penosa, invece assolutamente non lo è, perché il regista ha voluto trattare questo tema con delicatezza e sensibilità, ma anche con un certo humor, e lo testimonia il fatto che il protagonista, assieme alla ragazza, è un attore belga che conosciamo anche in Italia per aver fatto molti film di commedie divertenti, che si chiama Benoit Pelvourd, che non so forse ricordate, era anche un film come Vienna Perdre, Dio esiste a Bruxelles. Cosa ti ha convinto di questo film? È un film molto emozionante, ed emotivamente ti prende dall'inizio alla fine. Non prende soltanto i giovani, come lo testimonia poi il fatto che abbia vinto il premio al Festival di Giffoni come miglior film nella sezione dei generator più semplici, cioè dei più grandi, ma prende anche molto le persone adulte, perché appunto abbiamo due generazioni a confronto, l'adolescenza e la persona matura ormai sta grande. E mi ha convinto perché, a parte il fatto della sensibilità con cui è trattato, ci sono di genere nel film, ci sono anche degli elementi di fantascienza, degli elementi di divertenti quasi horror, che sono un po' la cifra del regista, cioè lui da quando ha fatto 4 film e in tutti e 4 c'è questo mix di generi. Noi pensiamo che il film sia adatto a varie generazioni e che possa anche portare un po' di pubblico giovanile in sala. Cos'altro sappiamo del regista? Purtroppo in Italia i suoi film ad oggi, tranne il nostro appunto, che abbiamo avuto il coraggio di prendere e quindi di distribuire, non sono usciti. Però ha fatto 3 film, 2 sono stati a Cannes, nella sezione Assise, che è la sezione quella dei film d'autore più importante, più ciblé, come si dice in francese, più determinata, e ha riportato vari premi, tra cui la Festival di Angers, nomination ai César francesi. E poi ha fatto un altro film che si chiama Swagger, che è stato anch'esso presentato a Cannes, e dove c'è un mix, come dicevo, di commedia musicale, dramma e anche fantascienza. Il suo film si chiama Poisson Sex, e anche qui c'è un mélange di commedia romantica e fantascienza. Insomma, lui è molto regista attirato anche da questo racconto appunto del reale, però in chiave fantascientifica in qualche modo. E questi elementi si ritrovano anche in Normal. Che circuitazione ha avuto prima di arrivare qui? Il film è stato presentato a Roma, neanche prima all'ambasciata, all'Istituto di Cultura Francese, poi è stato presentato al Festival di Napoli, al Festival di Valdarno. All'estero, nelle sale? In Francia è uscito, certo, è uscito qualche mese fa. Sì. In Francia i film escono un po' tutti, insomma, no? Sì. La situazione è diversa dalla nostra. Comunque quello che mi preme di dire è che il film non è un film pesante. Il regista, prima di scrivere questo film, ha lavorato con un gruppo di studenti di cinema che in una zona molto difficile, un quartiere difficile della sua cittadina, su questo tema, ha chiesto il permesso ai ragazzi naturalmente di poter raccontare la loro storia, e loro hanno fatto una specie di patto per cui praticamente lui poteva raccontare queste storie, ma con una vena di allegria, divertente, e soprattutto senza cercare di impietosire il pubblico. Ed è questo quello che lui ha fatto, un po' come ha fatto anche David Grade, da cui è tratto questo film. Ha scritto questa pièce che si chiama The Monster in the Hall, e questa motivazione c'è anche nella pièce di teatro. Quindi c'è questo misto di realismo e sogno, ma abbastanza divertente. E, insomma, è un film positivo alla fine, anche la fine è molto positiva senza svelarla, ma si trova una soluzione a questa situazione così drammatica. Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo? Noi abbiamo fatto una grossa parte nel sito con My Movies, poi ci sta anche il nostro sito e tutti i nostri social, che sono Nomad Entertainment, sono sia Facebook che Instagram che Twitter, TikTok. Su Facebook noi adesso metteremo la lista delle sale dove da giovedì esce il film, così come lo faremo la prossima settimana, il prossimo giovedì. In quante sale uscirà giovedì? Tra 25 e 30. Purtroppo non è facile trovare le sale in questo maralma di film che escono ogni settimana, però insomma siamo abbastanza contenti perché sono sale di qualità e che saranno lo spazio giusto, si spera, a un film del genere. Il film Normale di Olivier Babinet al cinema da giovedì 12 ottobre 2023. Un saluto e un ringraziamento a Lydia Genchi di Nomad Entertainment che lo distribuisce. A presto! Grazie, grazie mille, a presto, buon lavoro. Con Alessandro Negrini, regista del film La Luna Sott'acqua, al cinema da lunedì 9 ottobre 2023, ben trovato. Ciao a tutti e grazie per l'invito. Di cosa parla il tuo film? La Luna Sott'acqua è ambientato in un paese che si chiama Erto, che è uno dei paesi sopravvissuto alla tragedia del Vajont, della quale cade proprio quest'anno il 60° anniversario. Il film non è un reportage, un documentario classico, ma è un film che ondeggia molto con il linguaggio del sogno e con le atmosfere che si respirano in questo paese semifantasma, che ha una storia incredibile, sfuggita alle storie ufficiali, perché questo paese era proprio destinato a scomparire per sempre, eppure è ancora lì. Come nasce tutto? Mi parlarono di questo paese diversi anni fa e il film è girato nell'arco di diversi anni. Andai a scoprirlo e scoprì questo luogo di resistenza, perché effettivamente è un paese che si è aggrappato, è proprio anche degno del nome, inerpicato e aggrappato alla montagna sulla quale si trova. Iniziai a incuriosirmi, poi trovai insomma una produzione che si appassionò al progetto, che si chiama Incipit Film, e chiesi loro di poter stare un po' da solo lì. E qui raccolsi storie incredibili, aneddoti, creando un legame molto forte col paese, e da qui è nato il film. Un film che ha veramente degli elementi che a volte definirli onirici non è sufficiente. Per esempio, il titolo non è casuale. Quando andai lì, una delle cose che mi dissero e che mi spiegarono è che spesso non si vede la luna piena, perché quando tirarono sulla diga nel canyon l'aria si bloccava e spessissimo questo paese è totalmente coperto dalla nebbia. E un vecchietto mi disse: ci hanno rubato anche la luna. Quella frase mi rimase in mente e decisi di restituirgliela a modo mio con questo film. Al film che corpo e che anima hai voluto dargli? Ha un corpo molto sognante, costruito come una favola, e come tutte le favole però ha un sottotono tragico, perché si parla di quella che è stata definita dalle Nazioni Unite la più grande tragedia provocata dall'uomo. Però è un film corale con diversi personaggi e che flirta molto con il linguaggio del sogno, sogno condito di ferite, promesse tradite e desideri di una normalità che sembra sempre che stia per arrivare e poi non arriva mai. La voce narrante del film è di Maria Pia Di Meo, che è un po' la principessa del doppiaggio italiano, e doppia tutt'oggi Mary Streep, ha doppiato Jane Fonda, che ha dato veramente un tono sognante al film. E poi è un film con tanti elementi dentro, intrecciati, dove il passato parla continuamente nel presente, non soltanto il passato del Vajont, ma un passato ancora più antico. Che impressione ti ha fatto venire a contatto con questa realtà e poi filmandola? Quando hai a che fare con una comunità non ferita, ma proprio inondata dall'ingiustizia, devi stare attento molto a dove metti i piedi, devi dare la sensazione che non sei lì solo perché vuoi fare un film, ma che loro sono importanti perché esistono. E nel loro esistere ti raccontano un pezzo di storia invisibile, inenarrata. E quindi in realtà sono io che ringrazio loro, perché mi hanno reso testimone che spesso resistere serve. Perché questo paese veramente, anche dopo il Vajont, era destinato a scomparire dalle mappe, perché le autorità decisero di renderlo inabitabile nonostante il pericolo fosse passato. E il motivo era il voler continuare a sfruttare il bacino a montagna crollata. E la seconda cosa è che purtroppo il Vajont è una storia poco narrata, spesso narrata male. Ancora oggi leggo di gente che parla della diga che crollò, e invece è l'unica cosa che rimase intatta. Imponente questo dinosauro che sembra quasi che si stia per risvegliare ogni giorno con i suoi incubi e le sue promesse tradite di quegli anni, perché ovviamente spesso in un profitto le vite vengono travolte con la promessa di benessere, di prosperità, e invece furono totalmente scippati. Però questa comunità ha resistito ed è ancora lì, e io gli voglio bene per questo. Che percorso distributivo farà? C'è stata l'anteprima al Napoli Film Festival, la Sala Grenoble di Reggio, la settimana scorsa, e dal 9 ottobre adesso uscirà in diverse sale. Cominceremo dalle sale più vicine al territorio dove è accaduta la tragedia, quindi al Cinema Zeo di Pordenone, il Visionario di Udine, poi saremo a Treviso e in tante altre sale. Sarà a Perugia, adesso non me le ricordo tutti, in Toscana, in Sardegna, Cinecittà di Cagliari, e saremo a Roma il 14 novembre al Cinema Farnese, in una bella serata dove cercheremo di raccontare questa piccola grande storia invisibile. Dovrebbe esserci in sala anche Maria Pia Di Meo, speriamo, e avrà una circuitazione. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Trovate tutto sulla mia pagina Facebook, Alessandro Agrini, sulla pagina Incipit Film, che è la produzione e distributore, e poi insomma troverete anche su internet informazioni. La Luna Sott'acqua è il titolo del film. Al cinema da lunedì 9 ottobre 2023, un saluto e un ringraziamento al regista Alessandro Negrini. A presto! Grazie a voi, a presto, ciao, ciao ciao. Con Janet De Nardis, regista del film Good Vibes, al cinema da giovedì 5 ottobre 2023, ben trovata. Ciao, ciao a tutti, grazie mille per questo invito. Che storia hai raccontato? Ho raccontato una storia che potrebbe apparire a primo impatto futuristica, ma che in realtà racconta un pericolo molto contemporaneo, quello dell'abuso della tecnologia, quello del desiderio incondizionato di potere da parte degli uomini in generale, e anche il pericolo di considerare che la privacy non sia qualcosa da tutelare, ma che abbia sempre a che fare con il desiderio di nascondere una parte di sé, senza considerare invece che siamo persone e che quindi abbiamo anche una nostra intimità che va tutelata in quanto tale e che prevede anche la considerazione dell'altro. Quindi il fatto che ci siano alcune cose che non vanno dette o vanno dette in un certo momento o non vanno messe in piazza, secondo me è molto importante. Come nasce tutto? Nasce dalla volontà appunto di raccontare questa tecnologia che pervade la nostra società, questo essere in balia di un telefonino nel quale c'è un po' tutto. Ormai non sappiamo più trovare una strada senza il telefonino, ci sentiamo persi se lo dimentichiamo a casa. A volte non possiamo proprio compiere alcune azioni, perché se non hai il telefonino non le puoi proprio compiere. E il fatto che dentro al telefonino ci sia, ecco, non so, anche il nostro conto in banca o qualsiasi altro tipo di applicazione che fa riferimento alla nostra vita personale, e che ci mette anche in balia di persone che potrebbero manipolare così la nostra vita attraverso i nostri dati. Una preoccupazione che viene chiaramente anche dal fatto che sono una mamma che ha una bambina piccola e che mi devo confrontare ogni giorno con quanto permettere a mia figlia di usare e abusare della tecnologia. E quindi io, insieme a Ercilia Cacace, a Mirko Virgili, con i quali ho scritto questa storia, ci siamo interrogati, e per questo sono sorte tantissime domande e abbiamo deciso di rispondere a molte di queste domande, non a tutte, attraverso 5 storie che si intrecciano tra di loro, perché una sola storia effettivamente non ci permetteva di raccontare un mondo così complesso. In fase di costruzione, che chiave gli avete voluto dare e su quali elementi avete puntato? Abbiamo voluto parlare di qualcosa di fantastico, da lì il fanta, il thriller, dare un po' il senso avvincente, l'emozione, volevamo tenere un po' il pubblico in suspense guardando il film e desiderando di vedere ancora cos'altro succedeva. Quindi abbiamo un passaggio di testimone di questo cellulare che non si sa da dove arriva, che passa di mano in mano, lo vediamo arrivare nelle mani di un ragazzino che fa del male senza però desiderarlo, perché i ragazzi molto spesso finiscono in questa rete del cyberbullismo perché ancora non sono abbastanza maturi dal comprendere quanto sia pericoloso mettere in piazza certe informazioni, e quindi vanno a colpire duramente la sensibilità dei loro coetanei, fino ad arrivare a parlare, non so, ad esempio, di sentimenti come la gelosia, che spesso portano a voler vedere cosa c'è dentro questo cellulare, oppure il desiderio di potere. Magari, no, a volte pensiamo ai grandi industriali che detengono certi poteri, hanno delle potenzialità sulle informazioni delle persone di tutto il mondo, e ci chiediamo: ma cosa ne fanno poi di queste informazioni? Veramente possono manipolare così poi quello che accadrà nelle nostre vite? E allora, insomma, ci siamo chiesti un po' tutto e gli abbiamo dato questa forma un po' fantastica, un po' thriller, che è un film di genere dove cerchiamo anche un pochino di stupire. Io ho cercato di dare una forma un po' diversa rispetto a quello che si usa fare nel cinema italiano. In quante sale è uscito e com'è stata la prima settimana di programmazione? Il film, devo dire che ha avuto già un bel riscontro. Io sono stata molto contenta, devo dire, soprattutto dei commenti avuti fino adesso, perché insomma quello che si riconosce al film è soprattutto che è un film trasversale a livello generazionale. Il fatto che faccia riflettere, ora, per carità, secondo me non è che il cinema debba necessariamente avere la volontà di dare un messaggio e di fare riflettere, ma anche solo semplicemente intrattenere, però per quello che riguarda quello che voglio fare io, sicuramente il desiderio di poter lasciare un messaggio forte, di far tornare le persone a casa con qualcosa che si è smosso nello stomaco, ecco, per me vuol dire aver, tra virgolette, colpito nel segno. E poi anche il fatto di aver piacevolmente interessato persone appartenenti a varie generazioni, questo, insomma, mi ha gratificato molto, perché devo dire la verità, come regista ero un po' spaventata dal fatto che, diciamo, il pubblico italiano sia un po' più propenso per la commedia oppure per il dramma puro. Magari vedere una scena più splatter o un prodotto che comunque vada sul fantastico poteva essere accolto meno felicemente, invece devo dire con grande entusiasmo, è stato accolto con grande entusiasmo. Ci dai dei riferimenti web per sapere dove vederlo? Trovate sia su Instagram che su Facebook la pagina Good Vibes il film, e c'è anche il sito www.goodvibesilfilm.it, e trovate, insomma, tutte le informazioni, tra l'altro anche contenuti extra. Qui potrete vedere, insomma, alcune chicche dei giorni di set, dove si percepisce anche l'aspetto divertente che abbiamo vissuto. Ad esempio, ecco, se posso raccontare qualcosa di divertente, il rapporto che si è instaurato con gli attori quando eravamo sul set è stato veramente bello e soprattutto di grande slancio e curiosità, anche perché avere avevamo all'inizio sempre un approccio così un po' rocambolesco nel dover comprendere come muovere le mani, dove andare nell'aria, posizionarsi, cosa guardare, perché stiamo parlando di un film nel quale si ha a che fare con un telefono fatto di ologrammi, i quali, come ben sappiamo, gli ologrammi vengono inseriti in un secondo momento e quindi gli attori hanno dovuto giocare molto con la loro fantasia, ovviamente con i riferimenti che gli davo io, però insomma si sono divertiti molto tutti quanti a confrontarsi con una realtà che non c'era. Il film Good Vibes al cinema da giovedì 5 ottobre 2023. Un saluto e un ringraziamento alla regista Janet De Nardis. A presto! A presto, grazie, grazie mille. Con Antonio Abbate, regista del film Fobia, al cinema da giovedì 5 ottobre 2023, ben trovato. Grazie, grazie dell'invito, è davvero un piacere. Di cosa parla il tuo film? Un film giallo, ruota intorno alla scomparsa di una persona e la nostra protagonista dovrà cercarla e capire quali delle cose intorno a lei sono reali e quali no. Com'è nato tutto? Il film nasce da una sceneggiatura scritta da Michele Stefanile e Giacomo Ferraiuolo, poi io sono arrivato in un secondo momento e sono subentrato alla regia. All'inizio il film aveva dei toni più horror, poi lo abbiamo fatto andare sulla deriva thriller che ha adesso. Com'è stato il tuo lavoro con chi l'ha sceneggiato? Mischiare il piano della realtà con quello dell'immaginazione era un modo di narrare che mi aveva sempre affascinato e questo è un elemento del film su cui abbiamo lavorato molto. Ci piaceva molto l'idea e mi piace molto quando in un film alla fine è possibile dargli insomma più interpretazioni, non necessariamente una univoca. E quindi questo è stato un punto fondamentale intorno al quale abbiamo lavorato, perché ci avvicina al punto di vista di Chiara, della protagonista, che deve capire intorno a lei che cosa sta succedendo. Che cambiamenti hai deciso di apportare? Siamo andati più in una direzione congeniale a quello che mi interessava. Penso che questa storia fosse più interessante raccontata, insomma, declinandola attraverso questo genere. Quali erano gli elementi che ti hanno convinto ad entrare nel progetto? Il cinema giallo e thriller ha rappresentato la mia formazione cinematografica negli anni dell'adolescenza, quindi quando mi si è presentata questa opportunità di dirigere questo film ho avuto davvero pochissimi dubbi prima di accettare, dato in qualche modo la chiusura di un cerchio. Quali erano i lavori che in qualche modo ti hanno ispirato e su cui ti sei formato? Io penso che sia sempre una questione spigolosa citare le fonti di ispirazione, perché poi ci si va sempre a paragonare con dei film cult importantissimi, anche con degli autori molto celebrati, e diciamo che non mi interessa entrare in paragoni, però posso dire che sicuramente una persona che ritengo il mio maestro, a cui ho avuto il piacere di fare da assistente, che ho lavorato con lui per un po', è il regista Michael Mann. Com'è stato il lavoro con attori e attrici? Io sono molto contento del cast del film, a partire dalla protagonista Jenny De Nucci, ma non solo. Questo film poi è molto dialogato, basa la sua forza tanto su tutti gli intrighi e gli intrecci tra i personaggi, quindi il cast era davvero un punto fondamentale, non che ci siano film in cui il cast non è importante, però ecco, credo che il lavoro svolto da tutti è stato buono, molto buono sotto questo aspetto. Rispetto alla distribuzione, che tipo di scelta avete fatto? Il film è uscito giovedì 5 ottobre in tutta Italia, quindi in questo primo momento abbiamo il piacere di uscire in sala, anche in un momento in cui uscire in sala non è più neanche così semplice o così scontato. Poi sicuramente avrà un percorso in VOD per i servizi streaming, però è davvero una cosa che mi fa molto piacere, far nascere questo film in sala piuttosto che direttamente per lo streaming online. Per sapere dove vederlo, ci dai dei riferimenti web? Il film è distribuito nella catena UC Cinema, quindi andando sul loro sito potete vedere l'UC Cinema più vicino a voi. Il film Fobia al cinema da giovedì 5 ottobre 2023. Un saluto e un ringraziamento al regista Antonio Abbate. A presto! A presto, grazie davvero. Con Pedro Armocida del Sindacato Critici Cinematografici per presentare il film L'imprevedibile viaggio di Harold Fry di Etty MacDonald al cinema da giovedì 5 ottobre 2023. Ben trovato. Ciao a tutti, ciao Federica. Lo abbiamo visto insieme, ne siamo rimasti favorevolmente impressionati. Raccontiamolo brevemente a chi ci ascolta. Sì, l'imprevedibile viaggio di Harold Fry inizia, quindi non svegliamo niente proprio all'inizio, arriva una lettera tutta rosa che spezza questa routine di due anziani coniugi, no? Harold e Maureen Fry, porta il timbro di una città molto lontana da dove loro stanno, lui si chiede chi può averla scritta, visto che non riceveva niente da nessuno da tanto tempo, e scopre lui che è una sua vecchia collega di lavoro, nell'edificio in cui la lavoravano, e che sta in una residenza per anziani, malata terminale di cancro, e quindi ecco riceve questa notizia, e a cui lui vuole rispondere con una lettera, e esce di casa per spedire questa lettera, anche lì, addio di saluti reciproci, e poi inizia questo imprevedibile viaggio di Fry, come il titolo ci racconta, che peraltro no, è tratto da un omonimo romanzo di Rachel Joyce, che in Italia è pubblicato da Giunti. Non l'ho letto tutto il romanzo, ho dato un'occhiata, e mi è sembrato, almeno all'inizio, anche molto attento a ripercorrere questo stesso libro. Cosa sappiamo anche della regista? La regista, che lei è inglese, perché il film, la particolarità in qualche modo è che racconta molto anche di una certa Inghilterra, perché poi in questo viaggio Harold Fry incontrerà anche personaggi, questo viaggio che ha a che fare anche con un viaggio anche nella sua anima, e quindi c'è, noi abbiamo avuto la fortuna anche di vederlo in originale, in lingua inglese con i sottotitoli, e quindi c'è un percorso, diremmo, molto inglese, no? Chiaramente nella natura che vediamo, nei panorami. Pedro, a partire da una piccola zona residenziale dove abitano i due coniugi. Sì, certo, nel Devon lui si sposta per un viaggio di 800 chilometri all'interno dell'Inghilterra per andare nel nord e raggiungere appunto questa sua vecchia collega di lavoro, che poi si scopriranno anche altre cose. E per appunto in questo viaggio, ecco, dicevo, questa parte inglese secondo me è molto importante. Lei, il regista Etty MacDonald, aveva diretto un film nel 96 che si chiama Beautiful Thing, ma tra le altre cose ha lavorato molto in televisione, ha diretto molti episodi di serie, e l'ultima più importante, 6 episodi di Normal People, che è appunto un'altra di quelle serie che racconta in questo modo anche lì molto l'Inghilterra. Mi soffermo su questo particolare della provenienza e della descrizione poi di questo racconto, perché anche i due attori protagonisti sono gli interpreti che reggono poi tutto il film, no? Soprattutto lui, Jim Broadbent, che ricordiamo è stato un premio Oscar come non protagonista nel 2002 per Iris, un amore vero, e la moglie Penelope Wilton, una grandissima attrice famosa soprattutto adesso per Downton Abbey. E quindi ecco, sul volto di Jim Broadbent la regista si sofferma spesso per tutto questo viaggio, e direi che il film si regge quasi esclusivamente sulla sua performance attoriale, che poi è divertente sapere anche che lui ha prestato la voce all'audiolibro, chiaramente in originale, appunto dopo aver letto il film, c'è questa particolarità che lui aveva già letto il libro, quindi era l'attore in qualche modo giusto da coinvolgere. Io poi trovo che oltre agli interpreti ci sia anche un grande lavoro di scrittura rispetto alle psicologie dei personaggi. Sì, certo, è un film che ha dei momenti di flashback, quindi di racconto del passato del protagonista, in cui andiamo a conoscenza di alcune cose. È importante anche il rapporto che c'è, la storia con loro figlio, c'è anche questo, per quello dicevo, anche di una certa Inghilterra, no? Che come vabbè in tutti i paesi c'è una problematica anche magari delle tossicodipendenze dei figli, in questi luoghi che sembrano in qualche modo abbastanza perfetti, come dicevi tu, residenziali, e poi appunto la realtà chiaramente può essere diversa, e anche in una famiglia tra tra virgolette umile, borghese, non vorrei dire normale, ma semplice, ecco, questi due coniugi vengono poi sconvolti da questa esperienza con il figlio, come abbiamo visto anche in altri film, sempre, no, mi soffermo sulla questione inglese, perché comunque, ecco, è una realtà che nell'immaginario anche cinematografico di questo tipo di relazioni, di problematiche, negli anni abbiamo visto anche molti film. Il film L'imprevedibile viaggio di Harold Fry di Hattie MacDonald al cinema da giovedì 5 ottobre 2023. Un saluto e un ringraziamento a Pedro Armocida del Sindacato Critici Cinematografici. Alla prossima, Pedro! Grazie a voi, alla prossima, grazie. Con Rosy Battaglia, regista del documentario Io non faccio finta di niente. Ben trovata. Grazie Federico, ben trovati. Che storia hai raccontato? Io non faccio finta di niente, il titolo è tra l'altro ispirato proprio a una grande manifestazione organizzata dalle cittadine e i cittadini di Brescia. Ho raccontato una delle tante lotte in Italia per la giustizia ambientale e a tutela della salute. E questo Io non faccio finta di niente è emerso in maniera fortissima alla chiusura delle riprese del montaggio, perché era il grido che arriva dalla città di Brescia, che è una città industriale bellissima, piena d'arte, ma è una delle città più contaminate d'Italia e forse d'Europa. Come parte tutto? Tutto è partito grazie all'iniziativa delle mamme, degli agricoltori, di alcuni professori, il professor Marino Ostarenti, la mamma Stefania Baiguera, che a un certo punto hanno cominciato a comprendere come l'inquinamento industriale attivo e post-industriale nella città condizionava le loro vite. A Brescia, così come purtroppo a Taranto o altre città d'Italia, i bambini in diverse zone della città non possono toccare l'erba, non possono giocare sui prati perché contaminati da questa industria, la Caffaro, e questo inquinamento industriale appunto è stato accertato anche dallo Stato, le bonifiche vanno a rilento e di fatto però insomma questi gruppi, a partire appunto dalle mamme e da questi attivisti che hanno dato poi vita al movimento Basta Veleni, hanno continuato a sollecitare le istituzioni fino poi a ottenere qualche risultato, come racconto appunto poi nel documentario. Come hai deciso di strutturare il lavoro? Come dico sempre, la sceneggiatura è scritta dagli eventi per certi versi, nel senso che questi documentari, questo è il secondo, sto adesso come te sto lavorando al terzo progetto su Taranto, nascono dalla mia attività di giornalista investigatrice, poi prestata appunto alla regia e ai documentari, ed è una strada che sto cercando di prendere sempre con più forza. Il lavoro è nato inseguendo le storie, perché io sono fondamentalmente una giornalista investigativa, insomma, o comunque alla ricerca della cosiddetta verità, no? Nel voler capire le cose. E quindi da questi strumenti ho inseguito delle storie che si stavano compiendo davanti a me e ho avuto l'intuito e la fortuna di essere in quei territori al momento giusto, e quindi per certi versi la sceneggiatura è stata scritta, come dicevo prima, dagli eventi. Poi chiaramente, soprattutto sul documentario su Brescia, che è stato il mio secondo, sono riuscita a dare, penso, anche una buona struttura anche nel racconto, cadenziandolo dal punto di vista temporale e dal punto di vista degli eventi. Questo insomma è il lavoro anche che mi interessa fare, perché l'obiettivo è poi riportare queste storie alle nuove generazioni e a una memoria collettiva che altrimenti va persa. Che esperienza è stata? Di fatto è un'esperienza che vivo tuttora, molto bella, perché in realtà essendo una filmmaker, una giornalista che consuma solo delle scarpe, come si dice in gergo, è comunque insomma un lavoro che mi piace, che mi dà soddisfazione essere in mezzo alle persone. Poi chiaramente mi accorgo che man mano insomma che sto cercando di anche elevare la qualità filmica del mio lavoro, che in questo momento sicuramente questi progetti riescono a emozionare e a interessare le persone, perché sono storie appunto vere di fatto. Penso che poi ci siano anche tanti margini di miglioramento, però ecco insomma tutto questo mi rende molto molto contenta. Che canali distributivi hai scelto? Purtroppo anche noi, come tanti altri, siamo incappati nella pandemia, però Cittadini Archivi, la mia associazione che non ha scopo di lucro, di fatto questi progetti partono da uno zoccolo duro che è quello delle comunità che vivono intorno a Cittadini Archivi, quindi noi siamo un progetto che è nato 10 anni fa, quindi io sono nata come appunto una prima inchiesta intorno al tema dell'interesse nazionale dei siti più contaminati d'Italia. E intorno a me ho raccolto con crowdmapping appunto comitati, associazioni, cittadini che lottavano appunto per la tutela dell'ambiente e della tutela della salute. Quindi adesso va molto di moda parlare di ambiente, io insomma l'ho fatto in tempi non sospetti, proprio andando a toccare le situazioni più gravi di questo paese. Questo ha fatto in modo che in certo senso la distribuzione, e devo dire il primo documentario ha avuto più di 30 rappresentazioni in tutta Italia, l'abbiamo presentato in Campidoglio, all'Isola del Cinema a Roma, in Calabria, al Ciclo della Stampa a Torino, in alcuni festival, quindi un prodotto un po' borderline per certi versi, mi ha dato grandi soddisfazioni. Con Io non faccio finta di niente abbiamo avuto questo boom di selezione nei vari festival che ha fatto comprendere l'importanza anche di andare in sala, cosa che io obiettivamente confesso all'inizio non avevo valutato, nel senso che i documentari a mio avviso dovevano servire come restituzione alle comunità e soprattutto, come dicevo prima, per le nuove generazioni, quindi magari con le proiezioni nelle scuole, eccetera. Adesso appunto con la pandemia, con il documentario, le riprese le abbiamo chiuse alla fine 2019, quindi la presentazione che doveva essere fatta a Roma con il ministro Costa all'interno di un festival saltò. Di fatto abbiamo deciso comunque di distribuire il documentario anche online su Open Distribuzioni dal Basso. Però adesso stiamo anche riprendendo, e penso che anche per Taranto Chiama sarà esattamente la stessa cosa, quella che è una distribuzione dal basso, non solo attraverso i festival, ma attraverso le comunità, i circoli, le associazioni. E quindi il mio sogno è, se non vengono delle case di distribuzione in aiuto, è che anche Cittadini Archivi, insomma, si evolva in questo senso. Alcuni mi hanno chiesto come mai questi lavori non sono andati in televisione, non per mia colpa, e chiaramente qui ci sono appunto delle selezioni che magari sfuggono ai nostri pensieri, controlli, però ecco, di fatto insomma il mercato direi che è aperto, adesso ci sono tante piattaforme che potrebbero essere interessate, ma vedremo nel futuro. Ci dai dei riferimenti internet per saperne di più? Andate su Open Distribuzione dal Basso e cercate Rosi Battaglia, trovate le schede e potete visionare tutti i miei documentari. Se non faccio finta di niente, anche una pagina Facebook, e poi ogni altra informazione sui miei lavori la trovate sempre sul mio sito professionale rosibattaglia.it e su cittadiniriattivi.it. Il documentario Io non faccio finta di niente. Un saluto e un ringraziamento alla regista Rosi Battaglia. A presto! Grazie davvero Federico, a presto! Con Jay Weisberg, direttore artistico della 42esima edizione delle Giornate del Cinema Muto a Pordenone, Teatro Verdi, dal 7 al 14 ottobre 2023. Ben trovato. Grazie, buongiorno. Raccontiamo cos'è questo festival. Come ogni anno abbiamo i gioielli, anche i coperti, sia noti e anche i meno noti. Il nostro serata di apertura, per esempio, un capolavoro di Julien Duvivier, uno dei registi francesi più importanti non solo nel periodo muto ma anche sonore, è La Devine Crozière, un film di 1929 con una partitura scritta da Antonio Coppola. Ma anche alla fine, per esempio, il nostro serata di chiusura, abbiamo i più grandi comici in assoluto, Charlie Chaplin nel The Pilgrim di 1923, un nuovo restauro fatto da Chaplin, di Chaplin, e anche insieme con Chaplin abbiamo Buster Keaton in Sherlock Jr., uno dei capolavori in assoluto del cinema, non solo di cinema muto, e con questo c'è una partitura nuova, strale, scritta da olandese. Quindi questi sono i due all'inizio e alla fine. Quest'anno abbiamo più film di commedia che mai, e anche film di avventura. E mi piace molto questa idea che per noi le giornate del cinema muto non è solo un festival in cui si vede i maestri tipo Pabst, Griffith e Lubitsch, ma anche il film popolare, perché il cinema è per tutti. E per questo, per esempio, abbiamo un film di solo 20 minuti girato in Uruguay e Argentina con un squadro di calcio italiano di Genova. E quindi c'è anche calcio quest'anno, c'è il film di viaggi in cui si può vedere i Canari, Tenerife e Londra, e si può vedere Sri Lanka, per esempio, un programma straordinario di cinema delle origini nella Filmoteca di Catalogna a Barcellona. E uno dei nostri rassegni più grandi quest'anno è su Harry Peel, un attore, produttore, regista tedesco che ora è quasi dimenticato, ma nell'epoca lui era uno dei più importanti, più famosi e più amati attori dell'epoca. E con lui c'è sempre film di avventura, film di detective, film pieno di brio, e anche un film zigano che era particolarmente filmato nella Villa d'Este di Tivoli. E quindi, anche se è un festival internazionale, c'è sempre legami italiani. Nel complesso, quanti sono i titoli presentati in questa edizione? Più di 100, 120 titoli, perché c'è anche frammenti, c'è cortometraggi, c'è per esempio un piccolo gioiello di un minuto trovato in Amsterdam nell'iFilm Museum, in cui si vede Italia di Italiani, la nipote di Eleonora Duse, anche lei era un'attrice molto famosa nell'epoca, e c'è una bellissima un minuto in cui si vede come un film di promozione, si vede Italia di Italiani che incontra il regista Giuseppe Sterni. E queste sono le cose che di solito si sono dimenticate negli archivi. È una gioia per me proiettare queste cose come era nell'epoca. A proposito di archivi, quali sono quelli di vostro riferimento da cui attingete materiali? Ogni anno è diverso e dappertutto nel mondo, quindi dal Cinémathèque Française a Parigi alla Cinémathèque Città di Messico. Abbiamo lavorato quest'anno tanto con l'archivio di Praga, ovviamente negli Stati Uniti, Library of Congress a Washington D.C., qui in Italia, Bologna, Torino, Cinemateca del Friuli, ovviamente. Quindi proprio dappertutto, Copenaghen. Quest'anno però non abbiamo film giapponesi o cinesi, però abbiamo un film molto interessante, il primo film fatto nella comunità di Giappone negli Stati Uniti, in California, The Oath of the Sword. Anche quello è una scoperta molto importante. Per quanto riguarda la musicazione dal vivo, qual è l'orchestra che suonerà? Tra l'orchestra di camera di Pordenone, che era l'orchestra San Marco di Pordenone, c'è un cambio di nome ma non di gestione, e ovviamente c'è anche i nostri grandi musicisti che provengono da Italia, Inghilterra, Stati Uniti, Germania, questi sono i nostri maestri. Per tutti i dettagli del programma, quali sono i riferimenti web? Voglio dire due cose. Prima di tutto, le gente che non può venire, siamo anche in streaming. Quindi ogni giorno c'è uno, qualche volta due film disponibili per 48 ore. E si può trovare tutto sul nostro sito web giornatedelcinemamuto.it e il nostro partner streaming è mymovies.it. Ma tutto sul nostro sito, anche presentazioni di libri. 42esima edizione delle Giornate del Cinema Muto a Pordenone al Teatro Verdi dal 7 al 14 ottobre 2023. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Jay Weisberg. A presto! A presto, grazie mille. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.